sé yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Scusate, ho un nodo alla gola. Non per niente, semplicemente ci sono dei pollini in giro e ogni tanto mi danno questo tipo. Potrei simulare questo tipo di malessere, potrei simulare commozioni, visto che in questo momento in televisione piangono tutti, vedo grandi pianti alla fine di ogni talk show, talent show, ci sono sempre grandi pianti. Ho visto piangere la Carluccio, ho visto piangere Jerry Scott, ho visto piangere Maria Di Filippi, ieri piangono tutti. Un momento c'è un grande piagnisteo, probabilmente piangere da carisma. Ma non è questo l'argomento del giorno. Oggi vorrei dividere l'umanità che mi ascolta e pregherei di ascoltarmi attivamente, quindi telefonando all'800240024, perché se no io più di tanto non posso andare avanti, perché c'è soltanto un foglietto davanti che ho scritto Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti, e lì finisce il mio testo di questa trasmissione, che avrebbe dovuto avere un'altra piega, ma oggi ha questa piega. Dunque oggi vorrei dividere l'umanità in due grandi categorie, e voi a seconda di quale nella vita pensate di appartenere dovete telefonare. La prima è quella degli specializzati a vita, monocratici e monocordi. Uno nasce ragioniere, già è ragioniere quando è bambino, già fa il conto dei suoi pannolini, già riesce a ponderare il peso dei suoi piccoli e felici pieni nei pitalini, già nella vita è il primo a scuola, già è quello bravo a fare le astine, poi finalmente diventa ragioniere e fa ragioniere tutta la vita, ragioniere nei sentimenti, ragioniere nei rapporti umani, ragioniere nell'educazione dei figli. E in tonti protesti, perché te la prendi con i ragionieri? Ma prendo perché è la categoria fantoziana per eccellenza, quella che condanna vita e cementifica le persone in un'unica attività. Poi andrà in pensione, continuerà a fare ragioniere, farà le dichiarazioni dei redditi a tutto il suo condominio, poi quando non riuscirà più a fare nemmeno quello, che le diottrie l'avranno abbandonato, diventerà ragioniere delle escrescenze della propria prostata, poi diventerà ragioniere dei giorni che gli mancano prima della dipartita, poi diventerà ragioniere del suo ultimo istante, poi diventerà ragioniere, resterà ragioniere anche della sua decomposizione. Questo è un paradosso, chiaramente, una figura assolutamente e follemente fantastica, ma determina alcune persone che sanno soltanto fare una cosa, magari la fanno benissimo, magari sono i primi al mondo nel fare quella cosa, ma sanno fare soltanto quella. In ogni discorso, in ogni racconto, in ogni atto amatorio, in ogni fantasia, in ogni vacanza, in ogni loro gesto quotidiano sono eternamente quello. Dico ragioniere non perché ce l'abbia con i ragionieri, perché è l'attività che più mi fa pensare la condanna vita ad essere qualcosa. Una volta giravano con un regolo in tasca per fare calco, oggi avranno la calcolatrice, dopo domani avranno inserito un microchip per poter fare i loro conti, ma sempre potranno fare ragionieri. Poi esiste un'altra categoria di persone che hanno una regolare professione, una regolare attività, qualcosa che comunque rende loro eccellenza, o perlomeno rende benefico conforto e vitalizio alla propria famiglia, però in realtà sanno fare anche altre cose. Ma non sono degli hobby, non sono semplicemente dei passatempi. L'altro giorno abbiamo parlato di bricolage, non sono quelli che hanno Black & Decker in cantina e ogni tanto si dilettano a costruire le sedie o a aggiustare i tavolini. No, hanno veramente altre branche specializzatissime, professionali, delle attitudini meravigliose che potrebbero svolgere come professione, ma non lo fanno perché magari hanno deciso che il loro lavoro è quello, oppure piace loro coltivare questa seconda passione come se fosse qualcosa di proibito, come se fosse un amore clandestino, come se fosse un meraviglioso rapporto adulterino, e come tale la conservano, la considerano la loro attività migliore. Io ho un'attività del genere, per farvi capire. Io faccio il giornalista banalmente, biecamente, per molti anche impropriamente, ma in realtà il mio vero lavoro sarebbe un altro. Io dovrei fare il pizzaiolo. Io ho scoperto, ma abbastanza tardivamente, e chi mettesse in dubbio questo vada nel mio profilo Facebook, dove ho messo degli indiscreti filmati che mi furono rubati da un'amica e messi su YouTube, che stamattina li ho usati gloriosamente, e vi rivelo il mio segreto. Io nella mia cucina, che per un po' di amici, tra cui l'autrice del filmato, faccio la pizza. Io sono bravissimo a fare la pizza. Non lo sapevo, mai immaginato. Io ho vissuto da scapolo tanti anni, ho fatto lo scavezzacollo, ero bravissimo a fare la carne alla brace, ma non sapevo che la pizza era la mia vera attitudine. Io nel giro di una mezz'ora riesco a fare 7 tipi diversi di pizza a 10 persone. C'è la prova, guardate il video. È vero, è così. In particolare ho fantasia nel fare la pizza. Oltre a fare una pizza che in realtà è un'orgasmatica esperienza dai 9 ai 90 anni per uomini, donne, transex e tutti. È al di là di ogni determinazione. Faccio una pizza che, in cui mi sento veramente di esprimermi al massimo di ogni mia potenzialità. È la mia opera d'arte, il mio lavoro, la mia professione. Io non morirò mai di fame. Se un domani mi licenziassero, mi cacciassero, mi radiassero da tutti gli ordini del regno, io farei il pizzaiolo. Io mi basterebbe avere un po' di farina, un po' di lievito e pochissime cose che potrei raccattare anche in un cassonetto della spazzatura, fare una pizza che la gente rimarrebbe estasiata. In particolare la mia pizza migliore è la pizza a doppia patata che ho inventato io. Voi direte, ero a casa, c'erano degli amici, avevo soltanto farina e pasta e poche cose in più da bere, c'era in abbondanza, ritrovai in un pertugio alcune patate e inventai con pochi altri accessori, ecco, mi viene il groppo alla gola pensando alla mia vera attività, e pensai di fare la pizza a doppia patata. In realtà è una pizza bella con un unico strato di patate. Voi direte, perché doppia patata? Perché questa pizza presuppone una coda lunga, presuppone una estensione socializzante ed emotiva con persone a cui la si offre. Uno dovrebbe dire, mi si scusi la libertà e la licenza, ma questa è la chiave poetica della mia pizza. Dovrei dire, ti invito a prendere la pizza alla doppia patata a casa mia. Subito la curiosità, dice, ma come si fa questa pizza? C'è una pizza in cui c'è uno strato di patate. Dice, beh, perché doppia patata? Beh, la risposta la lascio a voi. Detto questo, 800240024, sarebbe stato utilissimo per me avere un contributo, ma non ce l'ho. E quindi devo andare avanti chiamando alcuni ospiti che già abbiamo pronti, in cui è possibile cominciare a capire e mettere a punto quella che è l'attitudine che vorremmo questa mattina esemplificare. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Gianluca. Giuseppe, professionalmente lei è un ingegnere gestionale. Sì. Giusto. Cosa significa esattamente? Lei si cura dell'ingegneria dell'organizzazione aziendale, qualcosa del genere? Sì, perfetto. Sì, l'ingegneria è applicata al campo del management e dell'organizzazione. Quindi è un lavoro molto serio che richiede comunque delle attitudini tecniche, tecnologiche abbastanza spiccate. Lei ha studiato molto per fare questo. Sì, sì, sì, questo è vero, anche perché il settore dove maggiormente applico queste conoscenze è il settore dell'ICT, quindi le conoscenze informatiche e tecnologiche sono veramente necessarie. Ecco, per dare corpo a questa sua ufficiale professione, lei la svolge con la massima gratificazione, ai massimi livelli, lavora nell'ambito di un'università. Sì, collaboro con l'università e quindi questo richiede un massimo impegno, è normale. Diciamo, non è un improvvisato nel suo lavoro, ma ha riconoscimenti dall'estero. Insomma, questo è un lavoro che le dà la massima soddisfazione e la massima gratifica. Sì, sì, assolutamente. Quindi sì. La sua attività da geniale multitasker delle sue attitudini non è compensatorio del lavoro. Lei con il lavoro deve tranquillamente vivere, avere soddisfazioni, lei fa ricercatore, via dicendo. Ma in realtà la sua seconda attività qual è? La mia seconda attività è quella di musicista. Ho la musica che mi accompagna da 30 anni, è stata per una parte della mia vita anche una professione, quella del musicista, e comunque adesso è una parte di me, cioè mi segue, ecco, ogni giorno di fianco alla mia professione. Per far capire, Giuseppe, uno potrebbe dire, beh, è un ingegnere con l'hobby della musica, ma quello vorrei far capire questa mattina che è qualcosa di diverso. Quello della musica non è un hobby, in realtà se domani chiudessero tutti le università di ingegneria gestionale sarebbe per lei un lavoro, lei lo potrebbe fare a livello professionale. Sì, sì, l'ho già svolto per 10 anni a livello professionale questa attività di musicista, naturalmente poi è stata subordinata al core business dell'ingegnere, però rimane sempre come una parte di attività quotidiana che esercito attualmente solo per me stesso. Ecco, però, è questo infatti che volevo far capire. Allora, non è un'attività di ripiego, non è un'attività hobbistica, è una biforcazione possibile. Lei potrebbe switchare in qualunque momento della sua vita e mettersi a fare il musicista, pur facendo l'ingegnere. Questa è la possibilità di essere multitask in maniera attitudinale. In più è anche giocatore di basket. Sì, sì, sì. Sono stato a livello semiprofessionistico per un bel po' di anni, poi con l'età ho dovuto naturalmente abbandonare questa attività, ma comunque la svolgo attualmente, diciamo settimanalmente, quasi per incontrare gli amici, ma per tenermi anche un po' in forma, ecco. Quindi l'attività, diciamo, del professionista multitask, che è molto di più che dire professionista, è colui che ha delle attitudini espressive della propria esistenza che potrebbero perfettamente essere sostituite l'una all'altra, prevede che nel corso della giornata uno possa tranquillamente entrare e uscire dal ruolo senza sentire che l'uno è il ruolo principale, quello del lavoro, del rigore, della professione, e l'altro è il luogo dell'evasione. Quindi entrambi le dimensioni sono praticamente percorribili per lei. Sì, assolutamente. È come se avessi una serie di finestre aperte e potessi abbassare una finestra e aprirne un'altra e lavorare in quella finestra con l'altra attività. Quindi lei ha perfettamente espresso quella che potrebbe essere l'attività, nella metafora da ingegnere, di un computer. È come se potessi minimizzare a un certo punto una finestra in cui sto lavorando, aprirne un'altra e aprire un altro lavoro. Ma il mio sistema operativo biologico mi permette di fare le funzioni contemporaneamente. Grazie Giuseppe. Raffaele, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Bene. Allora, diciamo che il suo discorso iniziale mi ha riportato a qualche anno fa, quando lei parlava del ragioniere, no? Io all'inizio della mia carriera universitaria feci tutt'altro rispetto a quello che adesso tuttora faccio. E studiai ingegneria, ma lo studio dell'ingegneria a un certo punto mi spaventò. Avevo paura di rimanere a fare l'ingegnere a vita. Poi ha sentito, l'ingegnere non significa una condanna, è l'equazione esistenziale di chi svolge una professione che fa sì che quella professione non sia solamente una condanna. Può essere una delle finestre e si apre e si chiude. Infatti, io forse questa lucidità non l'ho avuta in passato e cambiai totalmente registro e cominciai a studiare psicologia con grandi risultati, diciamo. Almeno dal mio punto di vista, io mi ritengo fortunato di aver fatto quella scelta all'epoca. Quindi oggi cosa è? Diciamo, oggi la sua biforcazione in cosa consiste? La mia biforcazione consiste di aver fatto un passaggio da un ambiente, diciamo, tecnico come quello ingegneristico alla psicologia, alla psicoterapia, alla psicodiagnostica. Questi sono gli ambiti in cui io, diciamo, di cui mi interesso. E la passione nascosta invece è l'informatica. Ho continuato forse ad avere un legame con l'ingegneria, però forse visto come aspetto secondario della mia vita, me l'ha fatta apprezzare. Ecco, lei cosa sa fare? Allora, lei fa lo psicoterapeuta di giorno, diciamo così. Siccome mi ritengo poi un giovane trentenne, dei giorni nostri, anche il lavoro stesso è molto articolato, perché oggi lavoro con pazienti psichiatrici, il giorno dopo lavoro nelle scuole, il giorno dopo ancora, quindi anche questo si diversifica e questo mi gratifica perché mi dà la possibilità di aprire sempre, di diversificare la mia vita. Sì, ma io vorrei capire, ecco, è il dottor Jekyll e Mr. Hyde che voglio capire. Convivono due lavorando lei sulla psiche, sa di cosa ammetto. A un certo punto lei chiude una finestra e ne apre un'altra. Come avviene nella fattispecie tecnicamente la chiusura e l'apertura della seconda finestra, quella dell'informatico? Viene spontanea. Il giorno, come diceva lei, io lavoro in questo ambito, la notte mi si accende il computer e lavoro su questo. A livelli abbastanza elevati, tanto che molte persone mi richiedono le consulenze, però io lo faccio a titolo totalmente. Quindi come io farei benissimo il pizzaiolo, io potrei aprire una pizzeria, avrei un grande successo. Lei è convinto che anche come informatico è un hobby, è un'attività vera? Improvvisamente non si trovasse più lavoro. Ecco, questo voglio sapere, questo è il discrimine. Se improvvisamente cessasse la prima attività, uno potrebbe switchare sulla seconda senza problemi. Sì, questo è la cosa che, diciamo, la rende particolare. Insomma. Perfetto, lei mi ha aiutato a fare un passo avanti. 800240024. Abbiamo definito maggiormente il problema. Non è il vostro hobby, la vostra attitudine mancata. È quello che potreste fare dalla mattina immediatamente se terminasse il vostro lato A. Se il lato A si spegnesse o decideste di spegnerlo o il mondo vi costringesse a lasciarlo, voi avreste una seconda chance. Mi scrivono su Facebook molte persone. Lamberto dice: mi sente particolarmente sforico per descrivere le mie attitudini pizzaiolo. Trova poco edificante vantarsi di una capacità che realmente non richiede grandi doti. Ma che non richiede tanti doti? Falla una pizza e poi fammi vedere. Il mondo è pieno di pizze di gomma, di pizze finte, di pizze standard, di pizze surgelate, di pizzaioli taroccati. Falla una pizza. Chiara dice: la mia prima attitudine spiccatissima è stata disegnare. Ero una promettente artista, ma sono stata poi obbligata negli anni dalla famiglia a intraprendere studi diversi. Sono diventata ragioniere e programmatore, poi tecnico multimediale in area internet, iscritta alla facoltà di giurisprudenza e infine ho fatto, andiamo avanti, servizio civile, volontariato nel sociale in corso dell'alta formazione in cooperazione internazionale. Ora coordino attività di mediazione culturale, ma rimango sempre un'appassionata d'arte e di musica. Schizofrenia? No, non schizofrenia. Solamente quello esattamente che sto dicendo io. Matteo, buongiorno. Buongiorno. Allora, vediamo la sua biforcazione, vediamo i suoi, entrambi i suoi lati. No, io più che una biforcazione, per la verità, non ho una doppia valenza. Al contrario, sono un generalista multitasking, sempre, non è una contraddizione fra un mestiere che faccio e un coso che mi piacerebbe. Sì, ma non diciamo in contraddizione, noi diciamo essere multitasking significa essere, avere l'attitudine a cambiare completamente e totalmente in un istante una propria attitudine e essere ad alto livello e espressivamente valido anche nell'altra. Non è che sono in contraddizione le cose, io intendo di me ho tante anime. Io ho il giornalista e il pizzaiolo, ho detto per fare un esempio, magari ne avrò anche altre. Tranquillamente potrei oggi togliermi la giacca e mettermi il camice bianco e fare pizze, non mi sentirei per niente limitato, non la sentirei l'attività di Serie B, mi sentirei perfettamente espresso anche in quell'attività. Assolutamente, e infatti io per esempio allora posso fare l'imprenditore e il ricercatore, ecco, se vogliamo mettere due cose. Definiamo i campi meglio, così capiamo il contrasto eventualmente. Quindi c'è un campo in cui mi piace il pratico, l'impresa, il realizzare le cose, per esempio adesso sto ristrutturando un borgo in Umbria e facendo altre cose del genere, e invece un altro campo in cui si studia, si ricerca, si filosofeggia, diciamo, e si cerca di capire le cose. Quindi a lei piace gestire le maestranze e seguire un progetto concretamente in una ristrutturazione, mettiamo, sì, di un con la partita IVA, con il commercialista, tutte queste cose. Fatto bene, fatto come se fosse un impresario vero, sì, non sì, come un hobbista, ecco. No. Quindi lei quando dice, quando io lavoro sono un impresario, un'impresa, gestisco tutto, so fare tutto, so esattamente quali sono le regole, le norme, le leggi, i regolamenti, le procedure. Perfetto. Quindi in teoria se la licenziassero dal suo lavoro lei potrebbe fare l'impresario. Sì, difficile licenziarsi perché sono autoimpiegato, ma insomma, vabbè, se mette a caso mi farebbe piacere. Si gioca tutto al casinò e quindi fallisce, che ne so, può succedere, non sì, lo so. No, si innamora di una donna che le suga tutto, non rimane senza niente. Ci sono mille fattispecie fortunate in cui uno può trovarsi con il sedere per terra. In quel caso lei contatterebbe le maestranze, prenderebbe dei progetti, si metterebbe a costruire case o a ristrutturare case. Certo, e lo posso fare. Va bene, questo è perfettamente quello che io volevo. Giulia, buongiorno. Sì, salve, buongiorno, grazie per avermi dato la parola. Grazie a lei che mi permette di guadagnarmi faticosamente il mio pane quotidiano, se no altrimenti oggi potrei raccontare della pizza alla doppia patata, non avrei altro da dire. Grazie. Niente, io ho già scelto, che è stata una scelta all'inizio proprio una vera scelta, poi dopo una necessità crescendo, da brava giovane laureata in scienze della comunicazione ho iniziato a fare lo so, poverina, mi dispiace. La redattrice, cosa che faccio tuttora e con grande soddisfazione, spero anche con buone prospettive. Ebbene, questo nel frattempo da tutta la vita coltivo una passione, che è quella della ginnastica artistica, uno sport minore quasi sconosciuto, ma che in realtà è la passione della mia vita, e dall'età di 18 anni più o meno, quindi sono 10 anni, io insegno. Quindi a questo ho deciso di aggiungere anche un altro impegno come consigliera comunale nel comune dove sono nata e cresciuta, e quindi questa è la mia vita attuale. Però durante una di queste attività, cioè durante l'insegnamento della ginnastica artistica, ho scoperto di avere un'altra attitudine. Che è, si può che dire alla radio? Sì, si può dire, che è l'attitudine a fare l'acconciatrice. E la fa bene? E penso di farla molto bene. Quindi è quadripartita lei in questo momento. Allora, da una parte è giornalista, redattrice. Esatto. D'altra parte ha una prospettiva politica, che anche quella può essere una prospettiva, abbiamo solidi esempi di cui dal nulla si può diventare degli uomini politici o donne politiche ancora di più, quindi anche quella potrebbe essere una strada se la fa con passione e con senso etico. Poi lei è un'insegnante di ginnastica artistica, quindi se in teoria perdesse tutti i lavori, dovesse emigrare, la cacciano di casa, lei potrebbe sopravvivere facendo l'insegnante di ginnastica. Esatto, esperienza sul campo e potrei fare addirittura anche l'acconciatrice. Ecco, l'acconciatrice, come ha coltivato questo talento? Come se n'è accorta? Che sa è fare? Un po' curiosa questa cosa, perché io lavoro con bambine dai 6 ai 15 anni, quindi bambine e ragazzine. Vabbè, ma sono molto vanitose le mamme, di solito le fanno... Esatto, e quando andiamo a fare le gare... I saggi di danza. Le gare, esatto. Le mamme cercano di pettinare le figlie non vogliono. Quindi negli anni mi sono presa questa incombenza di farlo io, ma ogni volta specializzandomi sempre di più e sono diventata bravissima. Quindi lei potrebbe, come ultima attività, se anche si spaccasse le ginocchia e non potesse più insegnare ginnastica artistica, aprire un salone per bambine vanitose e accocciare le bambine. Beh, non solo bambine, cioè potrei anche, evolvermi. Qui potrebbe fare l'acconciatrice e la parrucchiera. Perfetto, benissimo. Stupendamente, quello che volevamo cogliere. Melog 2.0. Scusate, stavo rispondendo su Facebook ad alcune ascoltatrici, soprattutto che mi chiedono delucidazioni sulla mia pizza alla doppia patata. Non posso darle pubblicamente al microfono, è una formula segreta, mi tengo sempre questa chance. Un domani dovessi rinunciare a questo lavoro che amo tantissimo, dovrei naturalmente aprire un ristorante brevettato e molto esclusivo in cui confeziono la pizza alla doppia patata. Giampiero Lotito, buongiorno. Buongiorno. Giampiero Lotito è un amico, avete sentito altre volte per cose serissime convocato a questo microfono, ma in questa realtà lo chiamo per cose futili. Giampiero, anche tu sei un esempio di multitask umano. Diciamo che nella vita ho avuto la fortuna di fare cose in settori diversi, dalla musica all'insegnamento alla tecnologia. Ecco, io ti ho chiamato molte volte qua come esperto in informatica, in motori di ricerca, in catalogazione e classificazione di dati dell'umanità, ma in realtà ho scoperto, guarda, la realtà l'ho saputa ieri sera fino in fondo e me la confessi questa mattina, tu sei stato un notissimo musicista, hai spopolato in paesi come la Grecia, è vero? Sì. Con chi suonavi? Io avevo un mio gruppo che ho creato con mio fratello e suonavamo quella che oggi viene conosciuta come musica etnica o come musica popolare del sud, e avemmo la fortuna di imbatterci in un filone estero e abbiamo fatto più di 200 concerti all'estero, siamo stati in TV in vari paesi, ho suonato a New York, ma è stata una carriera anche che è durata nel tempo, perché ad esempio 10 anni fa abbiamo avuto un premio come miglior gruppo italiano di settore, siamo stati invitati al Festival Interceltico di Lorient. Ma tu cosa suonavi, cantavi, cosa facevi te? Io la chitarra classica, è una chitarra che si chiama chitarra battente, in più canto perché userei il presente più che il passato, e scrivevo buona parte dei pezzi che suonavamo. Ecco, tu sei veramente un task, io ti giuro Giampiero, ti conosco, mai avrei sospettato fino a questo punto la tua attività, pensavo tu fossi uno stornellatore giovanile così, ma in realtà tu eri realmente un musicista e adesso fai l'informatico. Fermo lì, non ti muovere, devo sentire Barbara, che Barbara ha soltanto un istante, appena uscita da una riunione, però è una lavora in un'agenzia pubblicitaria, ma in realtà nella vita, almeno da quello che leggo, lei dovrebbe fare Black Mamba, cioè una donna specializzata in serial killeraggio, qualcosa del genere. Barbara, buongiorno. Buongiorno, ciao. Ma nella vita ufficialmente la gente cosa pensa che tu faccia? No, nella vita io sono una creativa in un'agenzia di pubblicità. È un bellissimo lavoro. Sì, di fatto è già appassionante quello, mi è sempre piaciuto, per cui non è che cerco di fare altro perché non mi piace il mio lavoro. Ma metti caso che fosse un settore in crisi, e lo è a volte, e tu non potessi più farlo, su cosa switchi? Switch su una palestra multitasking dove si fanno tutte le arti marziali, ma partendo dall'equitazione, tiro con l'arco e karate. Perché queste sono state le tre cose a cui ho dedicato tutto il mio tempo libero dall'età di 16 anni fino ad oggi. Quindi spieghiamo, non è che sono degli sport, degli hobby, tu saresti in grado di proporti come... Metti caso che io fossi ricchissimo, cercassi un tutore per i miei figli, ti affiderei ai miei figli, tu ne faresti dei cavallerizzi, dei tiratori con l'arco e degli uomini con delle armi letali al posto delle mani? Sì, perché di ognuno, diciamo che ho veramente indagato tutte le possibilità di ogni sport, perché nell'equitazione per 9 anni ho fatto quello in tutte le sfumature, dall'arte circense al salto ostacoli a allenare San Siro. tiro con l'arco, ho tirato con tutti i tipi di archi, ho fatto gare, anche nell'equitazione ho fatto gare, e in karate sono istruttore, dunque posso davvero, potrei, è un sogno, ma potrei realizzarlo. Potresti anche fare la guardia del corpo? Buono. Silenziosissima, no, come un ninja. Mi piace di più l'idea filosofica di queste tre arti, diciamo, del guerriero antico, ecco. Vabbè, sei buona. Non penso di appartenere a quest'epoca, in questo senso. Io sognavo di avere Kill Bill a mia disposizione, in realtà potresti essere una governante sui generis per dei ragazzi, cui insegni a muoversi nella vita non soltanto attraverso le subdole maniere di fregare il prossimo, ma anche attraverso una buona freccia tirata nel punto giusto, una bella cavalcata e un colpo dato al punto giusto. Grazie Barbara. Grazie Barbara. Concludiamo con Giampiero Lotito, che avevo interrotto bruscamente, ma Barbara mi hanno detto di rientrare nella sua riunione. Ecco, cosa ti sembra dal tuo punto di vista, che tu studi sistemi informatici, studi classificazione, questa possibilità di essere multitasking non soltanto con le attività informatiche, ma anche nella possibilità di switchare attitudini nella propria esistenza? Una cosa, il binomio musica e informatica è molto frequente, devo dire, forse perché c'è nel software e nella musica ci sono molti tratti comuni, però credo che sia un problema di attitudine personale, perché vedo che tante persone magari rinunciano a un talento perché devono coltivare una professione, devono andare avanti nella vita in un qualche modo, e sono pochi quelli che decidono di sviluppare tutti i talenti che possono avere. Ci vuole, devo dire, coraggio, perché poi alla fine si rischia di non essere mai qualcosa di definitivo, però è molto bello quando si riesce, una cosa che dà una soddisfazione incredibile, ovviamente, soprattutto se uno di questi talenti è un talento artistico. Ecco, io ho amiche, ad esempio, intanto saluto Giampiero Lotito, che non so, imprenditrici in vari settori, che a un certo punto, quando il settore mostra dei segni di crisi, si sono rimboccate le maniche, hanno ristrutturato la loro casa di famiglia, hanno aperto un bed and breakfast, sono diventate delle perfette ospiti ad altissimo livello. Sono stato pochi giorni fa in un posto a fare una conferenza, c'è una signora squisitissima che conosco come imprenditrice, che ha trasformato la sua casa in campagna in un luogo di accoglienza. Per lei è un'attività, lo sa fare benissimo, si nota l'impalpabile raffinatezza nell'essere ospitatrice nella sua casa, ma in realtà quella diventa un'attività che forse non ha mai immaginato di saper fare a livello professionale, ma che improvvisamente l'ha scoperto. Matteo. Sì, buongiorno Nicoletti. La sua bifurcazione è bellissima, sai, quello che leggo. Esatto, esatto. Innanzitutto la seguo, le volevo fare i complimenti. No, lo dico ufficialmente, non fate più i complimenti alla trasmissione. È bello, riempie di gioia, ma è tristanzuolo sentirselo dire. Prego. Beh, lei ha una capacità oratoria veramente incredibile, sì, quindi la seguo da tanto tempo, quindi ecco, insomma, ma sono più bravo a fare la pizza, mi credo, con lei, e quindi desideravo da tanto tempo, insomma, complimentarmi. Comunque, le posso dire la verità, sono molto più fiero della pizza alla doppia patata, mi dà molta più soddisfazione. Prego Matteo. Certo, sì, dottor Jekyll e Mr. Hyde, me lo sento dire molto spesso qui nella città in cui lavoro, insomma, perché di giorno sono inappuntabile. Io sono un consulente finanziario e lavoro per un grosso gruppo internazionale, quindi sono sempre in giacca e cravatta, in grigio o in blu, e quindi tutti mi vedono abbastanza irreprensibile, insomma, e per amor di Dio, insomma, non è che il lavoro, insomma, faccia la persona. L'abito non fa il monaco. Assolutamente l'abito non fa il monaco. Raschiamo fino in fondo al luogo comune. Con una grossa macchina, insomma, eccetera, eccetera. E poi la notte? E poi la notte è completamente diverso, perché appunto mi occupo di vini, sono un host, insomma. Un host, fa l'oste? Faccio l'oste, un oste. E come si veste da oste? Insomma, con la camicia a quadrettoni, insomma, con anche, insomma, delle volte delle magliette un po' bizzarre, insomma, diciamo così, anche perché questa via è una via particolare, una vecchia via di Bologna, ecco, diciamo anche la città, dove appunto viene frequentata da artisti e da altri personaggi di tal genere, insomma. Quindi la notte se non va a Bologna la trova nella sua osteria. Esatto, e magari sarebbe anche un piacere, insomma, offrire un ottimo bicchiere di vino. Guardi, io potrei capitare da quelle parti proprio questo fine settimana, quindi non si allarghi troppo, perché no, le costerei caro. Ma guardi, poi tra l'altro insomma ci sono quasi 2000 etichette di vini, quindi assolutamente insomma abbiamo un'ampia scelta anche di discernere appunto. Di a quelli. Che ora va a dormire lei? Appunto, perché l'oste penso è un po' un problema, questo è un po' un problema, perché spesso vado a dormire 3, 3 e mezzo, insomma, quindi la mattina delle volte insomma ho qualche difficoltà, e devo dire la verità che è un po' rallentato un po', diciamo, questa doppia vita, che poi è una vita unica, perché io sono queste due parti mi completano insomma reciprocamente, assolutamente. Quindi lei, pur facendo l'ore piccole, pur facendo l'ospite, pur mescendo vino, bevendo vino, riesce a essere un promotore finanziario perfetto la mattina. Le auguro salute, lunga vita e grande felicità. Melog 2.0 800 24 0024, stiamo parlando della possibilità di avere una doppia, ma anche una tripla, una quadrupla, una quintuplice, se uno vuole, attività. Nella nostra esistenza siamo conosciuti, connotati, circoscritti normalmente, banalmente, da quello che è scritto sul nostro biglietto da visita, ammesso che ne abbiamo uno, da quello per cui la gente ci conosce, RAG, ING, DOT, PROF e via dicendo. Ma in realtà molte persone coltivano qualcosa di più che un talento, che è una seconda chance, un'altra possibilità, un'altra personalità, un'altra maniera espressiva che potrebbe in pochissimo tempo, o anche contemporaneamente, anche sovrapponendo le attività, dare loro soddisfazione, sostentamento, ufficialmente capacità e diritto di esistere. Questo non è un hobby, questo non è un passatempo, questo non è semplicemente una velleità repressa, non è suonare il violino di nascosto, non è cucinare le torte perché questo ci sarebbe piaciuto fare, qualcosa che potrebbe darci realmente sostentamento. La possibilità di essere tante cose assieme, ma tutte a un livello di realtà, di ufficialità, non di hobbistica. Questo è quello che stiamo delineando questa mattina con i nostri ascoltatori. Michele, lei dice che è perfettamente biforcato. Vediamo in che maniera. Conto? Eccomi. Sì, buongiorno Nicoletti. Sì, io sono perfettamente biforcato perché attualmente faccio due lavori, ma mi mantengo gli altri tre che conosco. Ogni tanto li faccio. Sono uno spedizioniere. E adesso è pentuplice allora, 5 possibilità lei. Sì. Praticamente quello che faccio ufficialmente è lo spedizioniere, ma non c'è bisogno che stia in ufficio perché la mia competenza è richiesta a livello organizzativo, quindi... E lascia che siano gli altri a spedire. Esatto, sono io. Però io spedizioniere. Esatto, do dei comandi via computer, via telefono. Se le dicono che mestiere fai, lo spedizioniere, la prima risposta. Esatto. In seconda battuta, in realtà vado in giro e compro e vendo dei camion usati. Perfetto. Quindi compravendita camion, che è un'attività specifica. Esatto. Poi intanto che sono in giro, magari mi chiama una persona, un amico solito, punto, che mi dice: Michele, ho bisogno di montare due ruote, arriva gentilmente, quando viene, oggi, domani, dopodomani. E io vado in un'officina che restaura moto, diciamo, semi-antiche, antiche, da corsa e queste cose qua. Sono anche una memoria storica di questo, quindi vengo chiamato per questo motivo, e so montare le ruote a raggi, che sembra una cosa così... Ah, è complicatissimo, figuriamoci. Ecco, io lo so fare. Non lo fa più nessuno oggi, perché oggi le ruote sono a cerchio fuso. Esatto, no, ma nella ricostruzione, negli hobby di questi motocicli, diciamo... Dunque c'era una chiavetta rotonda con delle scanalature a seconda del calibro... dei raggi. Esatto, quello lo fa il ciclista, ma anche per, ecco, le moto, la motocicletta, se lei vuole mettere il cerchio perfettamente in asse deve fare, esatto, molta attenzione. Io sono bravo a fare proprio quello delle moto da corsa, le ultime moto di Agostini, tanto per, certo, citare una cosa che si può dire. Era l'MV Augusta, o sbaglio? Com'è? Era l'MV Augusta? L'MV, esatto, quando sono state rilevate, che ormai non erano più di Agostini, sono state rilevate, l'MV ha chiuso, allora le ruote a cerchio tutto, esatto, questo è un cerchio d'alluminio, gli cerchi d'alluminio, certo. Esatto, e quello lì, le ultime le ho montate io, ecco, tanto perché, e lo faccio tuttora così. Però intanto che monto le ruote, spesso in officina succede: Michele, metti un punto di saldatura lì, che è una saldatura particolare che si chiama saldobrasatura, è una cosa particolare, quasi una cucitura praticamente, e io lo faccio volentieri perché mi tengo allenato, quindi se domani mattina appunto dovesse venire meno qualche cosa, lo posso fare. Quindi se lei, questa è la domanda chiave, se chiudessero le sue altre attività di compravente di camion, di spedizioniere, potrebbe sopravvivere benissimo saldobrasando e allineando i cerchioni. Sì, assolutamente. assolutamente, in maniera professionale, ma sono anche abbastanza conosciuto nel settore. Questo è interessante, che lei riesce a mantenere completamente, a coltivare e a esercitare tutte le attività, senza lasciare che nessuna muffisca invecchi o arrugginisca. Alessandro. Sì, pronto? Sto aspettando la sua biforcazione. Sì, no, io diciamo che faccio una uniforcazione, nel senso che io mi sto reinventando il mio mestiere, che è quello dell'orafo. Io ho fatto scuola a Valenza e faccio l'orafo da molti anni e adesso lo sto reinventando praticamente, nel senso che io vado per molti anni in mare e ho una patente da skipper, quindi praticamente sto reinventando il mio mestiere, lo unifico queste due cose, l'orafo e lo skipper. Quindi lei lo skipper sarebbe la sua attività primaria, cosa fai di mestiere? No, io come mestiere faccio l'orafo. L'orafo. E come hobby, come passione vado anche per mare e sto facendo tutte quante le cose per diventare skipper sto cercando di unificare queste due cose, praticamente di girare con la barca e fare l'orafo e nello stesso tempo lo ma skipper. Ci si riesce con il rollio di una barca e il beccheggio a tenere il bulino nella giusta maniera? Parliamo di quando siamo fermo nei porti a fare l'orafo. Perché in alto mare è un po' difficile, diciamo. No, è chiaro, certo che è difficile, no. Quello io mi chiedevo. No, assolutamente no. Io sto parlando di quando si ferma nei porti, si faccio la mia attività e nello stesso tempo, se serve, faccio anche lo skipper, insomma. Beh, questo è interessante comunque. Sono due cose, sì, è una cosa un po' strana, un po' unificare queste due passioni che sono quelle dell'orafo, che è stata la mia grande passione, insomma, che ho svolto, che ancora svolgo adesso. Beh, diciamo, è riuscita a inventare addirittura nella conciliazione delle sue attitudini una terza attitudine, l'orafo navigante o il marinaio cesellante, che in realtà è qualcosa che non esiste. Bravo, Diego. Sì, buongiorno Nicoletti. Lei che sa fare? Allora, la mia biforcazione, io credo di essere una delle decine di migliaia di persone in Italia che lo fanno. Agente rappresentante industriale di giorno e mister. Di cosa? In che ramo? Rappresentanze industriali, quindi ricambistica componenti industriali per le aziende di meccanica soprattutto. E poi mister, allenatore di calcio in sostanza. Però vero, non di quelli da bar dello sport che chiacchierano. No, parliamo, ecco, la differenza è quella, me la spieghi. Qualifica. C'è chi ha speso tempo e denaro per qualificarsi per poter fare il mister, poi alla fine, nel caso specifico nei dilettanti, ovviamente, perché sennò... Quindi lei allena una squadra, veramente? Allena una squadra, esatto. Però la caratteristica peggiore, purtroppo, secondo me, almeno per quanto mi riguarda, è che poi alla fine questo è un hobby che diventa come un lavoro, tratti l'hobby come un lavoro e tratti il lavoro come un hobby. Beh, questo è esattamente... Questo è un pericolo. Non è un pericolo, è la meraviglia di quello che stiamo dicendo. Esatto. La possibilità di non essere mai qualificato in un'unica maniera, di essere un giano bifronte delle proprie attitudini, da qualunque parte la gira comunque lo fa bene. Lei non è che è un venditore di componenti industriali che fa il mister, è un mister venditore di componenti industriali. Bravo, bravissimo, però è un pericolo comunque. Perché è un pericolo? Per quanto riguarda i profitti è un pericolo alla fine, perché qual è che è la cosa che conta di più alla fine? Conta di più è la felicità, la cosa che conta di più, scusi, la cosa che conta di più è la sua felicità, non c'è altro che conta di più. Che è legata comunque ai guadagni. Guadagni, ho capito, ma non mi pare che fare due attività sottragga risorse una all'altra, se no rientriamo nel campo dell'hobby logorante. Allora anche la mia pizza alla doppia patata, se fosse un hobby logorante, toglierebbe energie al mio lavoro, ma in realtà anzi a volte le fortifica. Comunque ci si dedica tanto tempo a questo secondo lavoro per la grande passione che poi la Ma se no tanto che farebbe quel tempo? Va a dormire, gioca a carte, guarda la televisione, così è fortunatissimo. Meno male, certo. E rappresento, credo, le decine di migliaia di persone. In bocca al lupo, Diego. Valerio, chiudiamo con Valerio. Sì, buongiorno. Che sa fare? Senta, è semplicissimo. Io mi occupo normalmente di stampa, sono stampatore in Milano e mi occupo di pubblicità. Tempo dietro ho comprato una casa con 2000 metri di terreno e avevo il problema di sistemare sto terreno. Ho cominciato a chiamare giardinieri, che costavano una paccata di soldi. E quindi? E quindi dicendo vengo, non veniva mai nessuno. E quindi? A un certo punto ho comprato 20-30 libri sulle piante, avendo tutte le piante da frutto. E è diventato giardiniere. E mi sono messo a fare il giardiniere. Ecco, domanda, poi chiudiamo. Se per caso la sua tipografia dovesse chiudere, lei si riuscirebbe a mantenere facendo il giardiniere, secondo lei? Assolutamente sì, facendolo seriamente, contro gli altri che fanno il giardiniere professionalmente male. Perfetto, allora il multitask professionale e attitudinale è perfettamente possibile, l'abbiamo dimostrato questa mattina che tranquillamente ci siamo inventati una trasmissione. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22.